hui hui, tra timbri, tra tremiti di tropici i tormenti, viscere vertebrate quali orienti, e che ritmi e che rombi, tra rotti rutti i rictus più ridenti, e poi vivendo.